Diana andò incontro ad Anna alla stazione di Carmody. Guidarono in silenzio la carrozza sotto un cielo trapunto di stelle. Green Gables aveva un aspetto festoso quando comparve sulla sommità della strada. A ogni finestra c'era una luce il cui vivido splendore forava il buio e i vetri splendevano come boccioli rosso fiamma, ondeggianti contro lo sfondo cupo del bosco stregato. E nel cortile ardeva un falò, intorno a cui danzavano due allegre figurine, una delle quali lanciò un urlo sinistro quando il carro imboccò volando la via sotto i pioppi. Devi intendeva lanciare un urlo di guerra indiano, spiegò Diana. Il signor Harrison ha elettrizzato i ragazzi parlandogliene. Lui ha fatto una quantità di esercizi per poterlo lanciare al tuo arrivo come grido di benvenuto. La signora Linde sostiene che le ha logorato i nervi. Lui le strilla all'improvviso alle spalle, provocandole dei colpi apoplettici. Era anche deciso ad accendere un falò in tuo onore. Ha raccolto rami secchi senza sosta per 15 giorni e ha perseguitato Marilla perché gli permettesse di buttarvi sopra del cherosene per appiccare il fuoco. Dall'odore direi che è riuscito nel suo intento, sebbene la signora Linda non facesse che ripetere che se glielo avesse permesso lui sarebbe saltato in aria con tutti quanti. Ma Anna era già balzata giù dal carrozzino mentre Davy le stringeva le ginocchia con aria rapita e la placida Dora le scrollava la mano. Non è un magnifico falò, Anna? Adesso ti insegno ad attizzare il fuoco. Vedi le scintille? L'ho fatto per te, Anna, perché ero felice che tornassi a casa. Si aprì la porta della cucina e la figura sparuta di Marilla si stagliò sullo sfondo luminoso. Preferiva andare incontro ad Anna protetta dal buio perché aveva una terribile paura di scoppiare in lacrime di gioia. Lei, la rigida, controllata Marilla, che riteneva sconveniente rivelare la profondità delle proprie emozioni. Accanto a lei c'era la signora Linde, prosperosa, sorridente e matronale, quella di sempre. L'amore di cui Anna aveva parlato a Phil era davanti a lei, in attesa. E la circondava, avvolgendola nella sua accattivante dolcezza. Nulla, proprio nulla, poteva paragonarsi ai vecchi legami, ai vecchi amici e alla vecchia Green Gables. Come brillavano gli occhi di Anna mentre sedeva alla tavola imbandita per la cena, e com'erano rosee le sue guance e argentina la sua risata. E Diana sarebbe rimasta lì tutta la notte. Com'era tutto immutato dai vecchi tempi. E il servizio da tè, con i boccioli di rosa, occhieggiava sulla tavola. Marilla aveva superato se stessa. «Penso che tu e Diana andrete avanti a chiacchierare tutta la notte», osservò Marilla sarcastica appena le ragazze si avviarono verso le camere da letto. Marilla era sempre sarcastica, dopo una forte emozione. «Sì», concordò Anna gaiamente. Ma prima andrò a mettere a letto Davy, lui ci tiene. Puoi scommetterci, confermò Davy mentre attraversavano il vestibolo. Voglio di nuovo recitare le mie preghiere di fronte a qualcuno. Non è divertente dirle da solo. Non le dici da solo, Davy. Dio ti ascolta sempre. Oh, d'accordo, ma non posso vederlo, obiettò Davy. Vorrei pregare di fronte a qualcuno che posso vedere, ma non voglio farlo con la signora Linde o con Marilla. Io voglio te. Quando, tuttavia, ebbe infilato il suo pigiama grigio, Davy non sembrò avere fretta di cominciare. Rimase di fronte ad Anna, sfregando un piede nudo sull'altro, a fissarla, indeciso. Avanti, tesoro, inginocchiati, disse Anna. Davy andò a nascondere il capo nel grembo di Anna, ma non si inginocchiò. Anna, mormorò con voce soffocata, non mi sento in vena di pregare, è da una settimana che non mi sento. Io non ho detto le mie preghiere né ieri né l'altra sera. E perché no? Domandò Anna dolcemente. Non ti arrabbierai se te lo dico? Implorò Davy. Anna accarezzò il corpicino del bimbo fasciato di flanella grigia e gli strinse la testa tra le braccia. Mi sono mai arrabbiata, Davy, quando mi hai confidato qualcosa? No, non l'hai mai fatto, ma ti dispiaci ed è ancora peggio. Diventerai terribilmente triste quando lo saprai, Anna, e ti vergognerai di me, sono sicuro. Hai fatto qualcosa di cattivo, Devi? È per questo che non osi dire le preghiere? No, non ho fatto niente di cattivo per ora, ma voglio farlo. E che cos'è, Devi? Io voglio dire una parolaccia, confessò Devi con sforzo. L'ho sentita dire dal servitore del signor Harrison un giorno della settimana scorsa, ed è da allora che aspetto di dirla. Ci penso tutto il tempo, persino quando dico le preghiere. Dilla, Devi. Devi alzò costernato il viso. Ma Anna, è una parolaccia orrenda. Dilla. Devi le lanciò un'altra occhiata incredula, poi a bassa voce ripeté la tremenda parola. Subito dopo le nascose il volto in grembo. Oh, Anna, non la dirò mai più, non vorrò dirla mai e mai più. Sapevo che era una parolaccia, ma non sapevo che fosse tanto brutta, proprio non lo sapevo. No, non penso davvero che vorrei dirla ancora, Devi, e nemmeno pensarla. E se fossi in te non starei tanto con il servitore del signor Harrison. Però lui sa fare delle urla di guerra davvero spaventose, obiettò recalcitrante, Devi. Ma tu non vuoi imbottirti la mente di brutte parole, Devi, parole che vanificano tutto quanto c'è in te di buono e di virile, perché sono un veleno per la tua anima. Non è vero, bambino? No. Concordò Devi, gli occhi tondi per lo sforzo di introspezione. E allora, non andare con la gente che le usa. E adesso ti senti di dire le preghiere, Devi? Oh sì, disse Devi, inginocchiandosi prontamente. Adesso mi sento davvero di dirle. Adesso non ho paura di dire se morissi prima di svegliarmi, come ne avevo fino a poco fa quando avevo voglia di dire quella parolaccia. Probabilmente Diana e Anna aprirono l'una all'altra i loro cuori quella notte, ma nulla delle loro confidenze ci è stato trasmesso. Sappiamo soltanto che la mattina a colazione erano fresche come boccioli di rosa e avevano gli occhi brillanti come solo alla gioventù è concesso di apparire dopo ore e ore rubate al sonno per scambiarsi sogni e confessioni. Fino ad allora non era scesa la neve. Ma quando Diana attraversò il vecchio ponte di legno sulla via di casa, i bianchi fiocchi cominciarono a cadere sui campi e sui boschi, rosseggianti e grigi, nel loro sonno senza sogni. Subito i lontani pendii e le colline si velarono di bianco e divennero simili a fantasmi nel loro tulle di garza sottile, come se la pallida natura autunnale avesse posato un nebbioso velo da sposa sui propri capelli. E fosse in attesa del suo sposo invernale. Così ebbero un Natale nevoso e fu un giorno davvero stupendo. In mattinata giunsero lettere e doni dalla signorina Lavendar e da Paul. Anna le aprì nell'allegra cucina di Green Gables, inondata da quello che Davy, annusando estasiato, definì un odore delizioso. La signorina Lavendar e il signor Irving si sono ormai sistemati nella loro nuova casa, riferì Anna. Sono certa che la signorina Lavendar è assolutamente felice. Lo capisco dal tono della sua lettera. Ma c'è una nota di Carlotta Quarta. A lei non piace affatto Boston ed è piena di nostalgia. La signorina Lavendar desidera che io vada a Echo Lodge un giorno, mentre sono a casa. E che accenda il camino per asciugare i muri e controlli i cuscini per vedere se non sono ammuffiti. Chiederò a Diana di venirci con me la settimana prossima. Potremo trascorrere la serata con Teodora Dix. Voglio vedere Teodora. Tra parentesi, Ludovic Speed va ancora a trovarla? Boh, dicono di sì, disse Marilla, e pare che abbia intenzione di continuare. La gente aspetta che questo corteggiamento paziente approdi a una qualche conclusione una volta o l'altra. Se io fossi Teodora gli metterei fretta, che diamine, sentenziò la signora Lind, e non c'era il minimo dubbio che l'avrebbe fatto. C'era anche uno scritto scarabocchiato in fretta, come era tipico di Filippa, zeppo di Alec e Alonso, di che cosa avevano detto e di che cosa avevano fatto e come si erano comportati quando l'avevano vista. Ma non ho ancora la minima intenzione di pensare a sposarmi, scriveva Phil. Vorrei proprio che fossi venuta qui a decidere per me. Qualcuno dovrebbe farlo. Quando ho visto Alec, il mio cuore ha fatto un tuffo. Così ho subito pensato, è lui la persona giusta. Invece, quando è arrivato Alonso, il mio cuore ha fatto un altro tuffo. Così non ho alcuna sensazione che mi guidi. anche se dovrei averla, secondo quanto affermano tutti i romanzi che ho letto. Oh, Anna, sono sicura che il tuo cuore farà tuffi solo per il tuo principe azzurro. C'è qualcosa di radicalmente sbagliato in me, ma sto spassandomela un sacco. Come vorrei che fossi qui. Oggi nevica e io mi sento al settimo cielo. Avevo paura di un Natale verde. Io detesto i Natali verdi. Devi sapere che chiamo così quei Natali brutti e grigiastri, noiosi, come se fossero stati messi in naftalina 100 anni fa. Non chiedermi perché. Come dice Lord Dandreary, ci fono cose che nessuno può capire. Anna, non ti è mai successo di salire su un tram per scoprire dopo che non hai denari? A me sì, ieri. È stato orribile. Avevo un nickel con me quando sono uscita di casa. Pensavo che fosse nella tasca destra del mio cappotto e quando mi sono sistemata in un bel sedile comodo, mi sono messa a cercarlo e non c'era. Mi è venuto freddo. Ho cercato nell'altra tasca e non c'era. Altro freddo. Allora ho guardato in una tasca interna invano. Ho avuto due colpi di freddo insieme. Mi sono tolta i guanti, li ho posati sul sedile e ho nuovamente rovistato nelle mie tasche. Niente. Mi sono alzata, dandomi uno scossone, poi ho guardato sul pavimento. Ah, il tram era pieno di gente che ritornava a casa dall'opera e tutti mi guardavano, ma io non mi preoccupavo di una simile inezia. Non sono riuscita a trovare il mio nichelino per il biglietto. Ho concluso che dovevo essermelo messo in bocca e averlo ingoiato inavvertitamente. Non sapevo cosa fare. Il conducente avrebbe forse fermato il tram per buttarmi a terra, coperta di vergogna e di ignominia. Avrei mai potuto convincerlo che era una vittima della mia sventatezza e non una spregevole creatura che cercava di scroccare una corsa. Oh, come avrei desiderato che Alec e Alonso fossero lì con me, ma loro non c'erano, perché io li volevo. Se non li avessi voluti, sarebbero stati lì, di sicuro. E io dovevo decidere che dire al conducente quando fosse arrivato fino a me. Nel momento stesso in cui studiavo una risposta, ne comprendevo l'assurdità e ne pensavo un'altra. Sembrava che non ci fosse altra via se non quella della fede nella provvidenza, e per rendere un'idea del conforto che tale pensiero mi recava, ti ricordo quella vecchia signora che, esortata dal capitano durante una tempesta a riporre nell'Onnipotente le proprie speranze, esclamò: «Siamo a questo punto?» Proprio allo scoccare dell'ora fatidica, quando ogni speranza si era spenta e il conducente già si era avvicinato all'uomo che gli stava accanto per ritirare il denaro del biglietto, improvvisamente mi sono ricordata dove avevo cacciato quella miserabile monetina. Non l'avevo inghiottita. L'ho tirata fuori dolcemente dal dito indice del mio guanto sinistro e l'ho infilata nell'apposita cassettina che l'incaricato mi porgeva. Mi sono messa a sfoderare sorrisi a tutto spiano. Il mondo mi sembrava il più meraviglioso dei mondi possibili. La visita a Echo Lodge non fu la meno piacevole delle numerose passeggiate di quella vacanza. Anna e Diana vi ritornarono attraverso la vecchia via tra i boschi di faggi, recando con sé il cesto della merenda. Echo Lodge, che era rimasta chiusa dal matrimonio della signorina Lavendar, venne nuovamente aperta al vento e al sole, e la luce del fuoco brillò ancora nelle piccole stanze accoglienti. Il profumo di rosa della signorina Lavendar riempiva ancora l'aria. Era difficile credere che lei non sarebbe arrivata correndo, leggera, con i bruni occhi splendenti a dar loro il benvenuto. E che Carlotta IV con il suo fiocco blu e il suo largo sorriso non avrebbe fatto capolino dalla porta. Anche Paul sembrava librarsi intorno con il suo mondo di fiaba. Mi sento un po' come un fantasma che torni a rivedere il mondo sublunare, rise Anna. Andiamo a vedere se gli echi non hanno abbandonato la casa. Prendi il vecchio corno, è ancora appeso dietro la porta della cucina. Gli echi non avevano abbandonato la casa, né il bianco fiume, trasparente e maestoso come sempre. Quando si furono spenti, le ragazze diedero un ultimo sguardo a Echo Lodge e se ne andarono, in quella mezz'ora perfetta che segue il rosa e il giallo smagliante di un tramonto invernale.